Infatti non saranno qui dati riferimenti a leggi che compaiono sul testo e nemmeno le esemplificazioni che pure danno corpo alle ipotesi contenute nel lavoro stesso. D'altra parte non è possibile dilungarsi per ragioni di tempo. Spero di essere comunque chiara nell'esposizione, anche mancando dell'apparato documentativo. L'ordinamento interno a uno Stato è in diretta corrispondenza e conseguenza di due fattori. Di essi, uno è dato dal processo storico di formazione dello Stato per quanto attiene al suo elemento materiale, ossia il territorio, rispettivamente al nucleo centrale e le sue accessioni avvenute nel tempo. Il secondo fattore è rappresentato dal prevalere in un determinato periodo storico di una o di altra concezione politica generale della sovranità, che è elemento formale costitutivo dello Stato e dei suoi poteri. Di questi due fattori va tenuto il dovuto conto nel momento in cui si delinea la struttura amministrativa comunale nella provincia del Tirolo durante il secolo XIX. In rapporto al processo di formazione dello Stato dinastico degli Asburgo, nel quale la Contea del Tirolo dal 1363 e i due principati vescovili di Trento e Bressanone dal 1802 furono inseriti, basterà ricordare che ciò avvenne per un processo di accessione di territori già costituiti in vere e proprie unità statali, con sovranità mediata, ma dotati di proprie strutture amministrative radicate su una secolare semi-indipendenza. Contro questa realtà consolidata vennero a scontrarsi le modeste tendenze centralizzatrici di Maria Teresa, di Giuseppe II, di Francesco I e del commissario per il Tirolo Rochmann. Ma tali spinte centralistiche non riuscirono a limitare, se non per qualche aspetto, gli ordinamenti precedenti. Ben diversa fu la struttura amministrativa della Contea del Tirolo negli anni di dominazione bavarese e napoleonica, dal 5 al 1809-10. In quel periodo ebbero incidenza sull'ordinamento provinciale e comunale le dottrine politiche del centralismo legislativo ed amministrativo, le nuove concezioni dello Stato inteso come compatto e uniforme, tanto da cancellare totalmente ogni autonomia provinciale e comunale. Quali conflitti, anche insurrezionali, abbia suscitato lo scontro tra centralismo e autonomismo in questo periodo è ben noto e non intendiamo in questa sede riprendere il tema. L'Austria, tornata nella sovranità della principesca Contea del Tirolo, nella quale erano stati confermati anche i territori dei principati vescovili di Trento e Bressanone, tornò al sistema amministrativo della più ampia decentralizzazione delle funzioni e dei poteri, sulla base del principio, mai infranto per tutto il secolo 1815-1918, secondo il quale i comuni sono considerati come enti autonomi e non autarchici, e cioè soggetti di amministrazione diretta, non organi di amministrazione indiretta dello Stato. Vedremo poi come i comuni, oltre alle competenze naturali, saranno chiamati ad esercitare altre competenze delegate dal potere centrale. Ma questo, lungi dal togliere ad essi la loro piena autonomia, l'arricchiva semmai con la delega di potestà non proprie. Questo principio dell'autonomia non fu mai leso, né venne mai a subire scosse in relazione agli eventi politici interni alla monarchia asburgica, né nell'età della restaurazione, né in quella del neoassolutismo, se non per l'eliminazione della pubblicità delle sedute, non subì mutamenti con il ritorno al costituzionalismo e alla prassi parlamentare dal 1861 in poi. Questa permanenza del sistema amministrativo dall'età del Congresso di Vienna alla dissoluzione dell'Austria-Ungheria può anche offrire un'utile traccia metodologica. Si può infatti, come metodo, discendere dalla legge fondamentale di uno Stato per dedurne la logicità del conseguente ordine amministrativo, si può anche risalire da quest'ultimo per riconoscere la dinamica delle concezioni politiche generali e le strutture costituzionali di uno Stato. Tale metodo induttivo ci appare conforme ai processi e ai modi di formazione dello Stato dinastico degli Asburgo, le cui accessioni avvennero in tempi successivi e in forme diverse. Ciò premesso, va fissato un punto fondamentale. La legislazione sui comuni nella monarchia asburgica nasceva dal concorso del potere centrale che dettava in materia delle leggi quadro o del potere autonomo provinciale che le predisponeva direttamente ottenendo poi la sanzione imperiale o consentiva perché il governo centrale le emanasse direttamente. Quanto sopra avveniva in base alla patente imperiale del 12 marzo 1816, con la quale i tentativi di centralismo avevano ceduto di fronte alle resistenze autonomistiche dell'Antirol, e tanto più in base alla legge fondamentale dell'impero del 26 febbraio 1861 e l'allegato regolamento provinciale per la contea principesca del Tirolo, che dettava fra le attribuzioni della dieta provinciali stavano anche le disposizioni speciali entro i limiti segnati dalle leggi generali in oggetti comunali. Prima di esporre, seppur brevemente, e con le osservazioni critiche cui diedero luogo le diverse leggi in materia comunale, ci sembra opportuno insistere su questi due punti fondamentali ancora. L'autonomia e non autarchia dei comuni, che si concretizzava con estrema evidenza nei tipi di congegni messi in atto per la vigilanza e tutela. E il secondo punto fondamentale, la elettività della rappresentanza comunale e della deputazione. Elettività sempre rispettata, anche nel periodo della Restaurazione e in quello del neoassolutismo. Per quanto riguarda l'azione di controllo sui comuni da parte degli organi politici, va rilevato che fin dal 1819 essa ha più l'aspetto di un'assistenza che non di una vigilanza pesante sull'attività comunale. Spetta ai giudizi o ai delegati giudiziari confermare gli eletti all'amministrazione comunale, dirigere l'attività, sia nei comuni rurali, sia nelle città minori, nelle quali il magistrato politico-economico è subordinato al giudizio. Il borgomastro delle città maggiori è confermato invece dal capitano circolare. Nella legge del 62, l'amministrazione dello Stato si riservava di esercitare il diritto di sorveglianza sui comuni affinché gli stessi non oltrepassassero la loro sfera d'azione e non procedessero in senso contrario alle leggi vigenti. L'autorità politica provinciale poteva sciogliere la rappresentanza comunale, però con l'obbligo di indire una nuova elezione al più tardi entro 6 settimane dallo scioglimento. Da rilevare quindi il fatto che l'autorità politica in tale modo non aveva poteri sostitutivi rispetto a quelli dei comuni. Non prevedendo la legge né la nomina di commissari inviati dal centro né di gestioni commissariali in ottemperanza al rispetto della piena autonomia dei comuni. Nella legge del 66 le forme di vigilanza non si scostano nella sostanza da quelle fissate nel 62. La sorveglianza in tema di patrimonio e beni comunali è demandata alla rappresentanza distrettuale, che poi è un organo elettivo, poi se ne parlerà. E per quanto riguarda il controllo esercitato dagli organi politico-amministrativi, esso non risulta pesante, indirizzato nei confronti della legittimità più che nel merito. E sempre eligio al principio di non operare mai una sostituzione del potere centrale a quello periferico. La legge del 1882 riguardante le norme per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali prevede anch'essa che la vigilanza sui comuni avvenga attraverso la giunta provinciale e l'autorità politica distrettuale, che nell'82 non è più l'organo elettivo del 62-66. E gli stessi criteri si riscontrano nella legge 1892. Nell'una e nell'altra legge dell'82 e del 92 si prevede che per l'esecuzione delle prescrizioni date ai comuni dall'autorità politica siano nominati commissari o uomini di fiducia, magari inviati nel comune su richiesta del comune stesso. Ma anche in questi casi non si tratta di una sostituzione dell'autorità politico-amministrativa a quella comunale, bensì di un'opera di affiancamento. Nella legislazione austriaca, a differenza di quella italiana che prevede vigilanza e tutela, si parla solo di vigilanza, che nello spirito della legge si risolve in realtà come assistenza. Il commissario, il cui mandato deve contenere esattamente l'oggetto della sua missione, come dice la legge, e che deve essere esibito al capo comune, deve influire mediante l'istruzione che vengano tolti i viti scoperti, ma non gli è però permesso di prendere esso stesso disposizioni. Cioè è un delegato ad hoc che non può sostituirsi all'autorità comunale. Per quanto poi riguarda i caratteri fondamentali delle diverse leggi in materia comunale, in una rapida sintesi essi sono le seguenti. La legge quadro del 26 ottobre 1819. Con tale risoluzione sovrana si ricostituivano i comuni in base alla situazione del 1805, annullando l'aggregazione e quindi la riduzione del numero dei comuni effettuata in età napoleonica. L'autorità politica austriaca, ricostituendo una condizione del passato, cristallizzava una polverizzazione comunale atta a favorire senz'altro il mantenimento di un arcaico ordine sociale. Nel 1850 i comuni erano 386 su una popolazione di circa 300.000 abitanti. Il regolamento del 1819 distingueva fra comuni di campagna, città minori considerate come comuni e città maggiori considerate come comuni. Di queste parleremo poi perché saranno le città a statuto proprio. In questa tripartizione non si riflette soltanto una distinzione fondata sul ruolo più o meno importante assunto dai diversi centri nel corso della storia o legata solo al criterio numerico dei residenti, ma anche l'incipiente modificazione delle strutture economiche e l'emergere di nuovi ceti. Già nel 19, parlando delle città minori, si prevedeva l'istituzione di un magistrato politico-economico e accanto agli altri organi nelle città minori un apposito architetto civico in quelle città che hanno dei beni considerevoli e molti lavori in fabbriche. Ancora nel regolamento del 1819 non si precisavano la sfera d'azione indipendente, ossia naturale, dei comuni, né si parlava di sfera d'azione delegata. La successiva legge comunale è quella provvisoria del 17 marzo 1849, su cui va fatto un discorso a parte. Provvisoria, non venne applicata. Essa in parte riflette il clima nato dal biennio delle rivoluzioni europee. Questa legge provvisoria si apre con la dichiarazione dell'articolo primo. Il pilastro basilare dello Stato libero è il libero comune. Tuttavia sarebbe azzardato interpretare tale frase quale espressione di un programma democratico da attuarsi alla base come al vertice. Non va dimenticato che tale patente è del 17 marzo, successiva quindi al decreto di scioglimento dell'Assemblea di Krensir e anche successiva alla patente sovrana del 4 marzo, con la quale l'imperatore annunciava l'emanazione per propria volontà di una Costituzione. La legge comunale provvisoria è perciò preceduta dalla manifestazione da parte sovrana della volontà di ritornare all'assolutismo. Pertanto, nell'articolo primo non vi è proprio l'enunciazione di un principio democratico, piuttosto un modo per andare incontro e guadagnare il consenso della base, garantendo la libera amministrazione degli interessi locali che era gradita sia ai ceti borghesi sia a quelli legati all'economia agricola che costituivano la maggioranza della popolazione residente in piccoli e minimi comuni. Ossia assicurata la libertà in basso, nella sfera dell'autonoma gestione delle questioni locali, dove spesso mancavano gli uomini capaci di servirsi dell'autonomia per rompere uno stato di conservatorismo politico e sociale, deviata quindi la componente democratica in una dimensione meno preoccupante per il potere centrale, il governo riassumeva la direzione del potere negando al vertice l'esercizio di quella stessa libertà che lasciava al vivere nelle rappresentanze elette dei comuni. Questa legge comunque ha alcuni aspetti di estremo interesse. In essa si prevede la riunione di più comuni in uno. Si precisa il diritto per le città capitali di Lendere e di Circolo di acquistare per legge uno statuto proprio. Vi è riaffermato il principio della elettività degli organi comunali e quello della pubblicità di tutte le sedute. Per quanto attiene al controllo di legittimità e di merito, fondamentali sono gli articoli 110 e 111. In essi si afferma che quando il borgomastro crede che una delibera della giunta contrasti con questa legge o con le leggi vigenti, questione di legittimità, ossia di effettivo danno per i comuni, questione di merito, egli è tenuto a sospendere le esecuzioni e a sottoporre l'oggetto immediatamente all'autorità distrettuale, la quale nell'ultimo caso la presenta per decisione alla rappresentanza di circolo. Gli articoli 142 e seguenti invece parlano del distretto, ecco un altro livello organizzativo, che è circoscrizione amministrativa e anche politica, per il quale si prevede una giunta eletta dalle giunte comunali e che a sua volta elegge un obman. Dunque è un organo elettivo i cui sistemi di controllo sono come i precedenti ma con ricorso della parte dell'obman al capitano distrettuale. Gli articoli poi 159 e seguenti parlano del circolo e della rappresentanza di circolo che è anch'essa elettiva con le modalità precedenti e diretta da un obman, ma su questa si innesta il controllo del governo, per cui piani di amministrazione diversi elettivi. Spirato il periodo del neoassolutismo, contro il quale si erano eretti non solo le rivendicazioni nazionali, ma anche le resistenze dei Länder, l'ordinamento dei comuni trovò le sue disposizioni fondamentali nella legge del 5 marzo 1862. Questa legge non era innovativa nel senso di introdurre un arricchimento delle libertà comunali, dato che l'autonomia dei comuni e l'elettività dei loro organi erano già sanciti con la legge del 1819. La legge del 1862 non presentava la distinzione fra comuni di campagna, città minori e città maggiori, precisava invece la doppia sfera d'azione del comune, quella indipendente, ossia naturale, e quella delegata dallo Stato. Restava nella facoltà dei comuni l'unirsi per la trattazione degli affari riguardanti sia la sfera indipendente che quella delegata, ma l'unione era obbligatoria in affari delegati qualora la singola comunità non avesse i mezzi per provvedere individualmente. Inoltre i comuni uniti in base alla legge provvisoria del 1849 potevano chiedere di nuovo la separazione. La legge fissava poi le condizioni necessarie per l'elettorato attivo e passivo, stabiliva la pubblicità delle sedute, le norme, il controllo per l'introduzione di imposte, dazi, eccetera. Uno degli aspetti più interessanti della legge del 62 è dato dalla possibilità dell'introduzione tra il comune e la dieta provinciale di una rappresentanza distrettuale, ossia di un organo intermedio la cui sfera d'azione avrebbe abbracciato gli affari concernenti gli interessi nell'ambito del distretto. La rappresentanza distrettuale, elettiva come quella del comune, avrebbe dovuto essere composta dai rappresentanti dei quattro corpi esprimenti la struttura economico-sociale ed il suo capo avrebbe dovuto ottenere la sovrana conferma. Notevole risulta il fatto che a questo organo intermedio fossero affidati compiti di controllo, considerata la sua elettività. Non riesco più a vedere per il riverbero. Non riesco a vedere. Domando scusa. Mi scuso. Proprio non... Mi dai... Non riesco a leggere. Grazie. Le rappresentanze distrettuali non furono tuttavia attivate nel Tirolo. Si possono fare delle ipotesi, o per il timore di una perdita di potere da parte della giunta provinciale, o per la resistenza dei comuni nei confronti del centro davanti a una presunta lesione della loro autonomia. Alla legge comunale del 1862 seguì la legge comunale del 1866. Anche in essa si parla di pubblicità delle riunioni, della pubblicità dei processi verbali aperti a tutti i cittadini, della pubblicità degli inventari dei beni, dei consuntivi, dei preventivi e anche della necessità di convocare tutti i censiti e di sottoporre alla loro votazione determinati oggetti riguardanti la gestione economica. Il diritto di essere eletti si precisava come un dovere, prevedendo la legge delle multe abbastanza elevate per coloro che rifiutavano l'elezione e anche per l'assenteismo nelle sedute. Dopo la legge del 66, a modificazione della parte riguardante la parte economica, fu emanata la legge dell'82 concernente le norme di amministrazione del patrimonio e la vigilanza da parte della giunta provinciale. Questa legge, come quella del 92 di 10 anni dopo, esprime senz'altro la preoccupazione per una corretta dal punto di vista formale ed economica gestione del patrimonio comunale, soprattutto dei piccoli comuni, che erano spesso privi di uomini preparati nella tenuta dei bilanci. Alcune considerazioni di carattere generale riguardante questo tipo di struttura amministrativa potrebbero essere le seguenti, anche qui riassumo ampiamente. Il fatto più vistoso nella struttura amministrativa è il frazionamento che giunge fino alla polverizzazione comunale. Né ci pare che la legislazione austriaca solleciti la composizione in unità più vaste. Tutto questo non può non far sorgere la domanda: se tale frazionamento non fosse favorito dall'autorità politica e mantenuto nel corso del secolo XIX come cristallizzazione di una situazione la cui obiettiva debolezza e limiti potevano favorire la prevalenza del potere centrale. Se poi si pensa che i comuni erano legati anche ad una produzione agricola prevalentemente di autoconsumo, che si risolveva in una permanenza di una struttura sociale arcaica e conservatrice. Di fronte a tale frazionamento, che senso poteva avere l'autonomia finanziaria? È vero che i censiti, nell'amministrare il proprio patrimonio, si sentivano padroni in casa propria, ma è altrettanto vero che il frazionamento dei beni rendeva impossibile ogni iniziativa economica a largo respiro. Il risvolto positivo delle strutture amministrative comunali era dato dal fatto che la burocrazia nei comuni era ridotta a svelta locale e che i controlli riguardavano la legittimità più che il merito. L'ordinamento comunale austriaco favorì senz'altro il senso e la responsabilità dell'autoamministrazione attraverso forme di effettiva autonomia che lasciarono un'impronta indelebile nella concezione dei rapporti tra centro e periferia nelle popolazioni trentine. Con questo, tuttavia, non si vuole identificare la difesa dell'autonomia e dell'autogoverno con il primo gradino della democrazia. Spesso, anzi, le libertà comunali si identificavano con la chiusura negli interessi localistici e l'autonomia era contro non tanto il centro, ma il mutamento che alterava inveterate tradizioni. La resistenza al centro esercitata dai comuni minori, parlo dei piccoli comuni, se vi fu, non va pertanto ascritta a motivazioni di progressismo politico e sociale e difficilmente a motivi nazionali. Comunque i limiti di questo ordinamento emersero abbastanza presto. Qui adesso vi è una parte di esemplificazione di queste critiche, che sarebbe anche, direi, pittoresca e simpatica, ma è troppo lunga da leggere. Alcune critiche fatte da Saverio Eccheli in un volume apparso nel 77, poi alcune osservazioni interessantissime in quel catechismo per i capocomuni di Emberle uscito nel 1868, e infine parlo della critica compiuta da Vittorio De Ricabona in occasione della riforma comunale del 92, che hanno ben altro spessore dal punto di vista politico e dal punto di vista economico. Comunque è una parte che devo saltare per ragioni di tempo. E le critiche, questo va notato soltanto, si rivolgono non contro l'autonomia dei comuni, ma sull'uso che dell'autonomia fanno soprattutto i piccoli comuni dove non vi è un ceto preparato ad autoamministrare i beni. Uno degli aspetti, per la traduttrice sono a pagina 14, mi ha pregato. Uno degli aspetti più interessanti della legislazione dello Stato asburgico relativa ai comuni è quello dell'articolazione delle strutture amministrative fino al punto da prevedere città a statuto proprio, ossia fornite di una speciale autonomia nell'ambito dell'autonomia dei Länder. In questo settore della legislazione si rifletteva non solo il riconoscimento delle particolari individualità storiche e degli antichi privilegi goduti da talune città, ma anche l'apertura e la sollecitazione a favorire l'autogoverno nei centri maggiori dove esisteva un ceto sociale in grado di assumersi ampie responsabilità in materia amministrativa ed anche politica. Accanto ai comuni per i quali la legislazione austriaca prevedeva un'autonomia che potrebbe essere detta ordinaria, già con il regolamento del 1819 si riconosceva la posizione propria dei comuni maggiori, ai quali la sovrana patente del 17 relativa all'organizzazione dei giudizi assegnava il ruolo di istanze politiche, segue adesso dalla sovrana patente del 17 la precisazione di a quale territorio si estendeva il comune di Trento e di Rovereto, che particolarmente ci interessa. Queste città distretto, fornite di attribuzioni politiche di prima istanza, oltre a quelle esercitate per diritto naturale proprio dal Consiglio e dal magistrato politico-economico, rappresentavano quindi un'autonomia, anche di carattere politico, nell'ambito dell'autonomia della provincia. Di esse, città alcune, Innsbruck, Bolzano e Trento, si erano già date un proprio statuto nel corso del 1851 in base alla legge provvisoria del 1849. Ma fu la legge comunale del 5 marzo 1862 a porre le basi per la regolamentazione delle città a statuto proprio. Nella legge del 62 si prevedeva che oltre alle città capitali potessero chiedere uno statuto proprio anche altre importanti città. Segue adesso le leggi, le date nelle quali città e luoghi di cura ebbero appunto questi statuti speciali. Successivamente alle leggi comunali del 62-66, anche le città che già avevano uno statuto ne elaborarono uno proprio. Il primo statuto di Trento è del 1851, gli altri sono dopo la legge del 1866. Comunque vediamo brevemente lo statuto di Trento, lasciando gli altri statuti, perché è presa un poco come città esemplare di queste città distretto con propria autonomia. Nel 51 lo statuto di Trento precisava che la città di Trento forma per sé sola un distretto con l'immediata dipendenza dal presidente della reggenza circolare. Dei 124 paragrafi che costituivano il regolamento comunale e che specificavano le attribuzioni del comune e dei suoi organi, di particolare interesse erano quelle riguardanti l'amministrazione della polizia locale e quelli riguardanti le esecuzioni delle incombenze derivate, particolarmente ampi in materia economica. La forma più severa di controllo politico era costituita dal fatto che l'elezione del podestà era condizionata dalla conferma dell'imperatore. Il rifiuto alla conferma portava a una nuova elezione e qualora anche questo podestà non avesse ottenuto la conferma, era l'imperatore a nominare il podestà o fra i membri del consiglio o fra tutti i censiti eleggibili. Alle sessioni del consiglio comunale poteva assistere il presidente della reggenza circolare o un commissario, con diritto di parola ma non con diritto di voto. Inoltre l'adunanza del Consiglio poteva avvenire anche su richiesta del Presidente della Reggenza Circolare. Nello Statuto di Trento invece del 1888 si prevedeva sì che il sindaco fosse confermato dall'imperatore, ma non si prevedeva quella serie di norme per la nomina del sindaco nel caso non fosse avvenuta, va bene, la conferma. Nello Statuto dell'88, in più paragrafi, si precisa la posizione del Comune di Trento verso l'amministrazione dello Stato e della provincia, e precisamente al paragrafo 3 e al paragrafo 27 e al paragrafo 71. Cioè il civico Comune di Trento forma di per sé solo un distretto politico e sottostà rispetto alle attribuzioni proprie direttamente alla giunta provinciale e rispettivamente alla dieta provinciale, e rispetto alle attribuzioni delegate al dicastero politico provinciale. Ora, Non esaminiamo però qui lo statuto di Rovereto perché è simile a quello di Trento. Poi ho detto che Trento non lo prendiamo come una città tipo di questo tipo di autonomia nell'autonomia. E Trento è il tipico caso di una città a statuto proprio nella quale l'autonomia diventa mezzo di propulsione economica e insieme di difesa nazionale attraverso un'opera di resistenza al centro che riassume tutte le istanze della classe politica dirigente trentina. Ora il fatto che la città a statuto proprio eleggessero un magistrato che oltre a rappresentare l'autonomia del comune in tema di attribuzioni naturali, era anche autorità politica di prima istanza, segna la sostanziale differenza fra queste città e i comuni ad autonomia che diremmo normale. L'aspetto politico, oltre che amministrativo, dell'autonomia voluta da Trento, emerge dal fatto che questo comune si dava da sé il proprio regolamento elettorale, anche se emanato con legge provinciale. Questo rese possibile che nel Consiglio Comunale di Trento si parlasse di suffragio universale, o almeno allargato, proprio in merito alla riforma del regolamento elettorale nel periodo che va dal 1898 al 1901, e vi si svolgesse un dibattito estremamente incisivo, per i risvolti anche economici e politici di principio. In sostanza, l'autonomia goduta dal Comune di Trento rendeva possibile, almeno in linea teorica, l'adozione del suffragio universale prima ancora della sua introduzione nella monarchia asburgica. Rilevante appare anche la competenza in materia di affari economici, e non solo con riguardo alle attribuzioni proprie che differivano rispetto a quelle degli altri comuni non nella sostanza ma nell'estensione, bensì in merito a quelle delegate che erano ampissime. Lo stesso esercizio del potere punitivo esercitato quale attribuzione delegata era più esteso per Trento rispetto agli altri comuni. Ora è impossibile entrare nei particolari di questo statuto che è veramente molto ampio. Tuttavia, di fronte alla particolare autonomia connessa con attribuzioni politiche di prima istanza, della quale godevano alcune città del Tirolo, nel caso specifico preso in esame la città di Trento, è possibile compiere una valutazione di massima. Lo statuto, per quanto importante e suscettibile di valutazioni diverse come realtà giuridica, è solo uno strumento. La sua operatività e le direzioni della stessa nascono dall'incontro dello strumento con gli uomini, i quali se ne servono secondo un progetto legato a precise condizioni di carattere ideologico, economico e sociale. Pur in una sintesi sommaria, si può affermare che il Comune di Trento espresse quasi costantemente un consiglio e un magistrato composto da rappresentanti della corrente nazionale liberale che andavano da posizioni di marcato progressivismo a quelle di prudente conservazione di una libertà intesa come privilegio. Solo nel 1903 entrarono i primi rappresentanti del socialismo, cioè Cesare Battisti e Augusto Avancini, per cui il ceto prevalente era quello della borghesia legato all'attività commerciale e imprenditoriale. Comunque, il primo tentativo del decollo economico di Trento, connesso alla coscienza dell'uso politico dell'autonomia comunale e perciò in diretta resistenza e anche in attivo scontro con Innsbruck, si inizia con l'età di Paolo Osma Zurana. Un'età che va dall'84 al 95, ma l'impulso dato alla vita comunale si protrasse anche dopo la sua morte con uomini come Tambosi, Brugnara, Silli. Addentrarsi nelle singole iniziative sarebbe troppo lungo, anche se molto interessante ed anche suggestivo. Non può comunque essere taciuto il fatto che alcune delle iniziative in campo economico tendevano alla rigenerazione dell'intera provincia, non soltanto del comune, sfruttando così al massimo le possibilità offerte dallo statuto proprio, come qui do gli esempi, abbozzo di legge per la fondazione di un istituto di credito, eccetera. Interessante anche notare come la resistenza del Comune di Trento, quando vi fu ed emerse dagli esempi che ho dato e non leggo, questa resistenza si sviluppasse nei confronti di Innsbruck, non tanto contro Vienna, che a volte veniva invocata per tutelare gli interessi che si ritenevano lesi dal governo del Tirolo. Cioè, collaborare al centro, allo svecchiamento delle strutture della monarchia, significava per la classe dirigente trentina combattere contro il conservatorismo di stampo clericale che a volte aveva il governo tirolese e che comprometteva in modo esiziale lo sviluppo della parte italiana della provincia. Accanto al discorso nazionale fatto in chiave economica, lo statuto proprio della città di Trento permise anche di intraprendere e svolgere una serie di iniziative a carattere addirittura direttamente nazionale o anche irredentistico. Ne do degli esempi che salto nell'esposizione. Era questo un modo per dare piena e concreta attuazione non solo alla sfera di attribuzioni proprie riconosciute al comune e sulle quali la sorveglianza politica si esercitava in rapporto alla legittimità più che nel merito, ma anche la consapevolezza di quanto la particolare configurazione di Trento, città distretto, e quindi autorità politica di prima istanza, poteva dare corpo, almeno nell'ambito del comune, a quell'autonomia che invano si richiedeva per l'intero Trentino. La piena coscienza dello spessore politico e non solo amministrativo dei diritti e delle facoltà di cui godeva Trento permise alla classe dirigente della città, fornita di uomini responsabilmente preparati, un'azione a largo raggio e propulsiva nei confronti dell'intero territorio trentino. In questo modo, le strutture amministrative del Tirolo, che in contesti diversi ed in mano ad una diversa classe politica, potevano essere piegate alla perpetuazione di un ordine conservatore e grettamente immobilistico, utilizzate da un ceto economicamente intraprendente e culturalmente indirizzato verso le aspirazioni liberali e nazionali, potevano diventare un valido strumento di resistenza proprio nei confronti di quelle autorità politiche dalle quali le norme amministrative avevano tratto la loro origine. Comunque si voglia giudicare il sistema amministrativo del Tirolo, esso ebbe una profonda influenza sulle popolazioni trentine e sul suo ceto dirigente, anche se schierato su posizioni politiche diverse. Fautori delle autonomie politiche ed amministrative furono liberali, cattolici, socialisti, magari all'interno di un progetto politico complessivo diverso. Ma forse l'elemento più significativo di questa lunga abitudine all'autogoverno fu l'averne colto l'intimo significato di educazione al costume della democrazia da parte degli esponenti di tutte le correnti partitiche. Ceduto il Trentino all'Italia, si concludeva la lotta nazionale, ma non per questo cessava l'aspirazione a mantenere gli istituti autonomi che rivelavano così ben altri valori, oltre a quello di strumento per la difesa dell'italianità. Liberali, socialisti, popolari, al centro e alla periferia, in modo unanime e concorde richiesero al governo italiano il mantenimento delle autonomie provinciali e comunali. Uno degli ultimi atti della libera manifestazione della volontà popolare prima dell'avvento del fascismo fu l'ordine del giorno votato nella adunanza dei sindaci dei comuni del Trentino, tenuta a Trento il 14 novembre 1922, nel quale si reclamò la conservazione delle tradizionali autonomie provinciali e comunali. Il 18 febbraio 1923, dopo l'entrata in vigore anche nel Trentino della legge comunale italiana, ispirata al centralismo, e che ovviamente eliminava gli statuti speciali di cui godevano alcune città, il sindaco di Trento, Giovanni Peterlongo, così esprimeva al Consiglio Comunale il rammarico per la perdita delle tradizionali autonomie e con essa della libertà difesa da Trento per secoli. Vengono ora sottratte alla competenza del municipio le attribuzioni statali delegate che trovavano fondamento nello statuto abrogato e passate alla prefettura. Mandiamo un memore addio alla vecchia legge che, in base ad antichissimi diritti riconosciuti poi dalla sovrana risoluzione del 21 marzo 1851, costituiva la nostra Magna Carta, per la cui integrale conservazione a tutela delle nostre franchigie comunali abbiamo sostenuto lotte secolari. Dopo l'introduzione nel Trentino della legge comunale italiana, la riforma della legge comunale provinciale del 30 dicembre 1923 e le successive leggi del 1926, seguite dall'aggregazione dei comuni per decisione del centro, avrebbero sostituito completamente alle libertà autonomistiche quel principio dell'accentramento che è legato all'essenza dello Stato totalitario. Benissimo, ringrazio a nome di tutti la professoressa Garbari per questa relazione che, nella ricchezza dell'analisi del dato giuridico-amministrativo, ha lasciato intravedere in trasparenza, direi molto lucida, tutta la serie di problemi connessi a questa dinamica tra realtà municipali, la Contea del Tirolo e il governo centrale, che appunto si intravede anche per profani come sono io in questa disciplina, enormemente più complessi di quanto così superficialmente potrebbe derivarsi, senza proprio questa conoscenza di una realtà che non è solo giuridica appunto, ma si traduce nella vita quotidiana, che va appunto dalla restaurazione sino al fascismo e al nuovo Stato centralizzato italiano. Grazie quindi. Ora do la parola immediatamente, dato che oggi credo dobbiamo anche stringere i tempi, non nel senso di sacrificare certo le relazioni, ma essendo questa l'ultima riunione, probabilmente è necessario tenere un ritmo piuttosto sostenuto, alla professoressa Brigitte Mazzol dell'Università di Salisburgo, dell'Istituto di Storia dell'Università di Salisburgo, modesto. Ecco, che ci parlerà sul tema Costituzionelle Verfassungsentwicklung im Nachmärz.